Maria, così nel ricordo delle amiche Giovanna Lomazzi e Giulietta Simionato. Non aveva più motivi per stare al mondo, avendo avuto dei motivi eccelsi, perché voglio dire la sua carriera, la sua vita, è sempre stato un turbinio di ammiratori, di incontri, di omaggi, di denari, di lusso, tutto ha avuto. Piano piano tutto questo non l'ha avuto più. Lei si è ridotta a essere una donna sola, una donna a dover vivere in casa con due persone di servizio che erano le uniche persone che le erano rimaste vicine. L'ultima volta che io mi ricordo di Maria mi ha preso le mani, che avevo delle mani bellissime, ma di una forza, me le ha prese che sembrava che volesse stritolarmi le mani. Io ero sulla porta. Scusi. Giulia dice: ricordati che Maria ha cominciato a morire quando ha lasciato la musica. Beh, devo dire che mi manca molto, perché noi ci vedevamo quando, il periodo che lei stava a Milano, io stavo anche a Milano, ci si vedeva praticamente tutti i giorni, si faceva una vita assolutamente come di due donne che escono, vanno a fare le commissioni. Lei amava moltissimo comprare le cose per la casa, occuparsi della sua casa, poi a una certa ora, alle 5, alle 6 di pomeriggio, andava alla Scala per le prove così, o per studiare, e lei, come varcava la porta del teatro, cambiava. Will you welcome the one and only Madame Maria Callas?